24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Sono le 8, 16 minuti, 13 secondi, inizia questa terza parte di 24 Mattino, in questo mercoledì 26 febbraio. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a chi ci ascolta e che magari appunto è in casa per via, almeno in Lombardia, per via delle note vicende. Sì, in Lombardia o in Veneto, insomma, magari è fermo là, magari insomma, non è in quarantena, non è chiuso là dentro perché è in zona rossa, ma magari è chiuso in casa perché gli è stato magari consigliato anche dall'azienda. Però ti devo dire, Simone, che stamattina vorrei cominciare con una cosa diversa da quella di cui parleremo. Vuoi iniziare da Hillary Clinton? Fammi indovinare. Perché sono d'accordo con Paolo Mieli, con quanto avete detto prima. Mi sembra un po' pretestuoso, un po' arrampicarsi sugli specchi, questo tentativo di Hillary Clinton di farla pagare a quel Bernie Sanders che contribuì alla sua sconfitta nella precedente campagna elettorale. Poi lo dico senza timore, perché tutti sanno che la parità di genere è una delle cose che mi sta a cuore, da 5 anni ogni domenica ne parliamo, nessuna è perfetta, però a me non piace quando una donna si impadronisce del tema degli attacchi sessisti per fare le scarpe a un competitor. Non mi piace, lo trovo un modo, come dire, meschino di impadronirsi di una giusta battaglia a scopi personali. E quindi queste parole di Hillary mi sembrano un po' pretestuose. Poteva attaccare Sanders, che come è noto appartiene a un filone del Partito Democratico molto lontano da quello di Hillary Clinton, lo poteva attaccare con argomenti politici, ma tirare fuori la questione sessista. Mi pare davvero un'arrampicarsi sugli specchi. Anche se, devo dirti la verità, in questa intervista realizzata da Paolo Valentino sul Corriere della Sera, la questione del sessismo è un po' sfumata, il Corriere ci ha puntato molto, ci ha fatto il titolo, però è un po' più sfumata appunto la questione del sessismo, perché più Hillary in generale è una sul tema. E più in generale sul tema degli attacchi che vengono rivolti dal team di Sanders appunto agli avversari, no? accusato questo team di essere un po' troppo duro negli attacchi a Hillary Clinton. Dispiace che venga ricordato come la Fondazione Clinton ha rastrellato miliardi di dollari in questi anni, che le venga ricordato il suo essere insomma molto donna di establishment, che non c'è niente di male, ma comunque di aver fatto del suo ruolo politico, indubbiamente anche di grande qualità, anche una grandissima macchina da soldi insieme al marito Bill Clinton, e queste cose le danno fastidio. E allora invece di replicare a questi argomenti contro Sanders si attacca alla questione femminile. Non funziona. Vedremo un po' come andranno queste primarie americane, che si sono aperte molto bene per Sanders. Fammi invece dire, prima di andare al tema di giornata, che poi inevitabilmente è sempre quello, come sempre vi aspettiamo care ascoltatrici e cari ascoltatori al 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp e all'800-24-0024. C'è una cosa che forse abbiamo fatto un po' poco spesso in questi giorni e che vale la pena fare, ed è il ringraziamento a tutte le persone, infermieri, medici, personale non sanitario, che negli ospedali in queste ore è sottoposto ad un super lavoro e si sta letteralmente massacrando per venire incontro alle richieste, alle domande, alle informazioni che appunto vengono richieste da chi ha paura, chi ha qualche timore, a questa sequenza di tamponi che sono costretti a fare, alle analisi, insomma è un periodo duro di lavoro, di super turni, e quindi un abbraccio a tutti loro e grazie per quello che state facendo naturalmente. E ci sono, c'è da aggiungere peraltro, ci sono gli ospedali coinvolti dalla questione in Lombardia, in Veneto, nelle zone rosse, e poi ci sono tutti gli altri che stanno lavorando allo Spallanzani a Roma, anche lì senza sosta, perché lì arrivano tutti i tamponi. Ci sono, Per una volta bisogna anche dirlo, perché non c'è niente di male a riconoscere il grande lavoro che stanno facendo tutti gli impiegati del Ministero della Sanità, dove si finisce di lavorare a tardissima ora. È il loro dovere, sì, è il loro dovere, ma va anche detto grazie, perché sì, non c'è niente di male. Sicuramente. Dunque, 8, 21 minuti e 20 secondi. Tra poco parleremo con la Ministra dell'Istruzione Azzolina, Lucia Azzolina, per chiarire anche un po' di vostri dubbi, di nostri dubbi, in merito a questa chiusura delle scuole, per quanto ancora potrebbe proseguire, che cosa si fa adesso, le lezioni via web, perché i cinesi, quando hanno chiuso Wuhan, si sono attrezzati molto rapidamente, nel giro di un paio di giorni già erano partite le lezioni su WeChat, e bisogna vedere che cosa succede, se si rischia addirittura di ritardare l'anno scolastico. Azzolina smentisce in queste ore, dice no, non succederà questo, non chiuderemo più tardi, però vedremo e lo chiederemo direttamente a lei. Prima però la questione economica, I giornali oggi ne sono pieni, le preoccupazioni del mondo dell'imprenditoria sono enormi, non solo per quello che succede in Italia in queste ore, ma anche per il fatto che iniziano a non esserci più le forniture dalla Cina. È una preoccupazione globale, infatti, e penso che ce lo racconterà, c'è una storia da raccontarci anche il nostro ospite, il primo ospite di questa mattina. È Alberto Baban, ex proprietario della TAPI, TAPI Sintetici, è stato alla guida della piccola industria di Confindustria adesso insomma è una persona che ha rapporti con la Cina e che aspetta forniture dalla Cina. Baban, buongiorno, che forniture aspetta? Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, io ormai sono partecipante su 16 imprese qui in Veneto, quindi diversi settori, e questo tema della Cina è molto sentito. E cominciamo ad avere dei seri problemi di fornitura in diversi settori, dall'elettronica, delle parti che riguardano il settore delle materie plastiche, a dei telai delle biciclette, quindi ci sono ormai le preoccupazioni che erano delle previsioni iniziali che stanno diventando realtà. Maria. Senta Alberto Baban, poi c'è l'altro versante della preoccupazione, che è quello che riguarda le imprese che non possono produrre perché sono chiuse, imprese chiuse in Lombardia, in Veneto. Il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, oggi ne parla proprio il Sole 24 Ore, ha detto di aspettarsi misure di sostegno ad aziende, anche quelle non localizzate nella zona rossa, ma che abbiano appunto lavoratori a casa perché sono residenti nella zona rossa oppure perché fanno parte della catena di forniture. Servono misure strutturali, Baban, per restituire la fiducia alle imprese, e soprattutto serve un sostegno agli investimenti privati. In che direzione, se lei potesse dare un suggerimento al governo, in che direzione si muoverebbe? Ma guardi, sicuramente, come ha detto lei, serve più fiducia, perché questa situazione di panico era sicuramente imprevedibile, ma non è forse nemmeno comprensibile, perché noi arriviamo da una fase del fine del 2019 dove le previsioni di ordinativi erano a ribasso, questo lo sapevamo. Una seconda fase, che è il coronavirus in Cina, dove la previsione di riapertura delle fabbriche cinesi era stata rimandata e poi è successa, e questa ha comportato due grandi effetti. Uno, quello della catena della subfornitura, che stiamo vivendo in questo momento, ma dall'altra parte i cinesi sono un grandissimo cliente in moltissimi settori, pensiamo all'automotive piuttosto che al settore del lusso. E adesso una terza fase che riguarda poi noi, perché c'è una preoccupazione realistica, ci sono fabbriche e ordinativi fermi perché non girano più i commerciali, non girano più i clienti, ma c'è una preoccupazione di fondo che sembra veramente una fase quasi di panico. Quindi bisogna restituire più serenità, più tranquillità, perché è chiaro che bisogna rispettare quella che è l'allarme ovviamente sanitario, perché è un problema realistico, ma allo stesso tempo bisogna stare attenti a non trasformarlo in una tragedia economica. E bisogna ripensare, secondo me, alle catene di fornitura, perché questa fase della globalizzazione ha dimostrato una grandissima fragilità. E quindi bisogna anche ripensare al dopo, quando ripartiremo con più serenità. E l'occasione buona è quella di non avere solo delle misure a supporto per il momento, perché saranno sempre comunque insufficienti, ma bisogna pensare per esempio a come si può reinvestire in questo paese per riportarsi a casa delle produzioni, perché abbiamo visto che la debolezza può fermare delle intere filiere produttive delle nostre fabbriche. Sì. Sì, allo studio in realtà un provvedimento su questo, ne ha parlato lungamente nelle settimane scorse il ministro Patuanelli, appunto per il cosiddetto reshoring, ossia appunto il ritorno delle aziende dai paesi dove hanno delocalizzato o dove sono andate a produrre per altre questioni di convenienza. Baban, ci conferma dall'osservatorio che ha che si sta verificando anche un problema ovviamente con fornitori e clienti esteri per gli imprenditori, perché a fronte di tutto questo chiaramente uno dall'estero che deve avere un appuntamento con un imprenditore italiano per una fornitura o per qualsiasi altro motivo, adesso sta dicendo: beh ragazzi, ok, ci fermiamo, ci rivediamo tra un mese se le cose sono migliorate. Sta andando così? Sono assolutamente a confermarle questa situazione, siamo in una situazione di stallo totale e quindi bisogna uscirne, e no, non sarà una cosa semplice. Si pensi solo al fatto di aver rimandato due fiere importanti, una quella dell'occhialeria, il Mido, e poi quella del Salone del Mobile. Sono fiere dove si fanno degli appuntamenti commerciali, non si espone solo il prodotto, ma si siglano contratti. Questo penso che avrà una ripercussione enorme. Noi bisogna che reagiamo a questa situazione, perché guardi, si possono fare qualsiasi tipo di provvedimento nell'immediato, ma se non si pensa a una stabilizzazione del problema, se non si pensa a ragionarla con una prospettiva di futuro, noi possiamo avere veramente delle misure che saranno per sempre insufficienti. Posso solo fare un riferimento rispetto a quello che diceva Patuanelli sull'IRES. Le do un mio parere personale. L'IRES è un'imposta sui guadagni che farai. E quindi se io faccio un investimento, ora che va a regime questo investimento, forse l'IRES la pagherò in misura minore dopo 2 anni sull'investimento che vado a fare subito. Qui serve un supporto finanziario, secondo me serve un super ammortamento dedicato per gli investimenti di reshoring e servono delle agevolazioni per chi decide di investire, quindi di assumere, specifiche per questo aspetto di rivedere questa fase di globalizzazione, rivedere le catene di fornitura, perché ribadisco, siamo diventati veramente molto fragili. E potrebbe esserci una pandemia di nuovo tra un anno, e questo proprio il nostro sistema, ma penso anche il sistema europeo industriale, non potrebbe permetterselo. Senta, ieri il capo dello Stato ha lanciato, con il suo stile che non è mai esibito, ha fatto capire che serve abbassare i toni e lavorare in concordia. Come vediamo in altri paesi, del coronavirus si parla pochissimo ed è impossibile che non ci siano dei casi in Francia o che ce ne siano così pochi. La sua, diciamo, visione di imprenditore che lavora anche molto con l'estero, la porta a ritenere che nei prossimi giorni, appunto, bisognerebbe adottare una dimensione meno allarmata, e magari anche cominciare a riaprire le aziende? Assolutamente, bisognerebbe adottare un sistema informativo per spiegare che qui è tutto relativamente normale, nel senso che siamo attentissimi a qualsiasi suggerimento normativo sanitario, ma allo stesso tempo le fabbriche sono aperte e possiamo ricevere qualsiasi persona, possiamo discutere con qualsiasi parte commerciale, perché altrimenti noi ci chiudiamo e questo ha una conseguenza che non è assolutamente prevedibile nelle dimensioni. L'informazione deve restituire quella che è la fotografia non solo delle zone rosse, ma quello che è poi la rappresentanza della totalità, della quasi totalità dell'Italia, un'Italia che lavora. Vedere Milano deserta piuttosto che la piazza San Marco deserta, immagini che non è nemmeno concepibile, al di là di capire le preoccupazioni giustissime e questa volontà di rimediare immediatamente a questo problema enorme, ma allo stesso tempo non possiamo poi avere una contaminazione sul sistema economico, perché porterebbe forse a dei danni ancora più gravi di quella che è l'emergenza attuale. Pochi morti per il coronavirus e purtroppo tanti fallimenti, questa è la preoccupazione. Si pensi che in questo momento stiamo discutendo sul nuovo codice della crisi d'impresa, che mette in dubbio sul fatto che poi le nostre imprese ne rispondano gli amministratori anche con il proprio patrimonio, quindi qui c'è una battaglia in atto che è di agevolare le imprese, ma allo stesso tempo in un certo senso di pensare alle imprese come un avversario. Qui bisogna ritornare anche nella semplicità delle cose, perché gli imprenditori sono quelli che rischiano e sono quelli che portano avanti il paese, perché è basato sul la nostra economia è basata sul lavoro, le nostre comunità sono le piccole e medie aziende che popolano il nostro paese. Bisogna ritornare a raccontare la normalità del paese, di un grandissimo paese manifatturiere, produttivo, e che ha una grande resilienza, una capacità di reagire molto importante, molto forte. E speriamo che la dimostri nei prossimi mesi. Grazie Alberto Babani, imprenditore, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Buona giornata. E oltre, qualche ascoltatore ce lo ricorda giustamente, oltre a ringraziare quelli che lavorano negli ospedali, professioni sanitarie e non sanitarie, beh, naturalmente anche i farmacisti presi d'assalto in questi giorni, anche dalle richieste di informazioni, oltre che dalle richieste di mascherine, e sì, naturalmente anche i cassieri dei supermercati, con tutto quello che abbiamo visto. A proposito di mascherine, lasciami dire una cosa curiosa. A Parigi, nelle farmacie, non si trovano mascherine, ma non perché sono andate, come dire, esaurite. No, proprio perché non le vendono, non ci sono. Strano, Chissà, magari le vendono nei negozi di bricolage, che insomma fa anche molto francese. E tra l'altro hanno rinviato, si diceva, perché qualche ascoltatore ce lo ricorda, diceva Babanna, hanno rinviato Mido, il Salone del Mobile, ma hanno rinviato anche Cosmoprof, hanno rinviato anche Mexpe di Parma, sono altre fiere molto importanti. Quindi insomma il punto è questo. Vedremo che cosa succederà, intanto ci fermiamo e poi dopo parliamo con la Ministra di istruzione, di scuola, chiusura delle scuole e via dicendo, tra poco. Mattino. Le 8:35 minuti, 46 secondi. Se volete intervenire anche sul tema della scuola, il 349-238-6666 per gli sms, messaggi, WhatsApp, anche audio. Lucia Azzolina, Ministra dell'Istruzione. Buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Prego Maria, inizia tu, vai. Buongiorno Ministro, c'è grande preoccupazione tra i genitori perché si rischia di non arrivare a 200 giorni di lezione. Sono chiuse le scuole nelle zone rosse, ma anche a Milano hanno chiuso le scuole, a Palermo per un caso. Allora, la prima cosa che le chiedo è come si fa a non invalidare l'anno scolastico? E penso ai tanti genitori che già sono preoccupati perché vedono le classifiche della preparazione degli studenti italiani che spesso sono negli ultimi posti delle classifiche europee per via dello scarso apprendimento delle materie scientifiche e poi fanno i conti dei giorni di scuola che stanno perdendo e si mettono le mani nei capelli. La prima domanda: potrebbe saltare l'obbligo dei 200 giorni di lezione? Secondo, l'anno scolastico come pensate di farlo recuperare? Allungando i tempi della scuola oltre metà giugno? Grazie per le domande. Io capisco le preoccupazioni dei genitori, è un momento complesso, però posso rassicurare sia i genitori sia i nostri studenti in merito alle domande che lei adesso mi ha posto. Non c'è assolutamente alcun rischio che i nostri studenti perdano l'anno, uno perché abbiamo una normativa salda, nel senso che al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico. In ogni caso, questo sappiamo che il testo unico, l'articolo 74,3, ci parla dei 200 giorni, ma se ci sono situazioni imprevedibili l'anno è salvo. E questa già è la prima risposta in merito alla domanda. Poi c'è anche un'altra eventuale possibilità che io credo non sarà assolutamente necessaria, nel senso che le scuole, nella loro autonomia scolastica, sulla base del DPR 275 del 99, potrebbero anche decidere di allungare l'anno scolastico, ma non sarà necessario anche perché noi stiamo lavorando con una task force da giorni al Ministero dell'Istruzione per garantire ai nostri studenti la didattica a distanza, che rappresenta forse un po' anche il futuro, no? Di una delle tante possibilità di fare didattica. Abbiamo dei docenti esperti in tutta Italia che si sono riuniti questa settimana insieme a me, insieme alla RAI, alla Treccani, a Microsoft, a Google, si fanno le classroom, cioè c'è una scuola che è molto più avanzata, soprattutto in alcune zone del paese che ahimè sono anche quelle per cui oggi le scuole sono chiuse, che si sta già muovendo. Sì. Ma le infrastrutture adeguate ce l'abbiamo dal punto di vista tecnologico, Azzolina? Le infrastrutture e le strumentazioni adeguate ce le abbiamo nelle scuole? In tantissime scuole ci sono, per altre stiamo stanziando dei soldi, abbiamo la collaborazione di TIM e anche di altri partner che ci daranno una mano nei prossimi giorni per garantire che laddove non ci siano queste infrastrutture adeguate arrivino. Se volete, questo è l'aspetto positivo di tutta la vicenda negativa che riguarda il coronavirus, cioè dimostrare che la scuola è una grande comunità scolastica e quando ha bisogno è l'intero paese che si muove. Quali sono le regioni? Il Sole 24 Ore mette proprio la notizia in prima pagina e cita studenti dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Veneto e del Piemonte e anche della Liguria che hanno seguito le lezioni in maniera tecnologica. Ma quanti sono gli istituti che per ora l'hanno fatta e quanti lei prevede che possano seguire, ammesso che le scuole rimangano chiuse ancora per qualche settimana nelle zone rosse? Infatti io mi auguro che ovviamente le scuole riaprano quanto prima. Gli istituti sono tanti perché il Nord Italia è ben attrezzato per rispondere a queste esigenze. C'è il Tosi a Busto, ma ce ne sono veramente tantissime. Vede, quando si parla della scuola spesso se ne parla in termini negativi, fa più notizia, fanno più notizie gli aspetti negativi che ci sono, per carità, ma c'è un'Italia produttiva anche, c'è una scuola produttiva e laddove ci fossero delle scuole in difficoltà noi arriveremo, perché da oggi stesso la task force che abbiamo posto in essere questa settimana andrà in giro per gli uffici scolastici regionali delle regioni in cui le scuole sono state chiuse a fare immediatamente formazione rispetto ai docenti che potrebbero trovarsi più in difficoltà, rispetto agli uffici scolastici regionali stessi, per iniziare immediatamente con la didattica a distanza. E poi la RAI ci sta dando una grande mano, la Treccani anche, abbiamo tanti webinar, ieri ne abbiamo fatto uno con Tutto Scuola, insomma forse sta uscendo la parte più bella che c'è nella scuola italiana, uscendo fuori. Allora, teniamo un attimo fuori le zone rosse, Ministra, e spostiamoci sul Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna, insomma le regioni che stanno chiudendo le scuole. Le sembra pensabile che questa chiusura delle scuole venga estesa ulteriormente? Che cosa ci può dire in merito a questo? Perché quello che si stanno chiedendo molti genitori, le scuole sono chiuse anche la settimana prossima oppure no? Allora io questo adesso non glielo so dire, perché tutte le decisioni che stiamo prendendo come governo le stiamo prendendo sulla base di un principio che è quello della proporzionalità e in accordo assoluto con le massime autorità sanitarie. Significa che noi abbiamo posto in essere delle misure che mi rendo conto essere draconiane, molto rigide, però è molto restrittive. Lo abbiamo fatto per avere un effetto contenimento rispetto alla diffusione del virus. Quindi se le misure che noi abbiamo posto in essere avranno, come speriamo, degli effetti celeri, immediati, io penso che se in questo momento abbiamo una chiusura regionale delle scuole, dalla prossima settimana si potrà iniziare a pensare eventualmente di avere una chiusura provinciale, cioè più legata a delle zone dove ci sono dei focolai, parlo per esempio dell'Odigiano, ma se a Varese, faccio un esempio, non avremo casi, non ci sarà stata nessuna diffusione del virus e altro, io credo che lì le scuole potranno anche ricominciare. Quindi l'ipotesi è questa, l'ipotesi è che si passi a una chiusura più localizzata su base, esatto, provinciale. Ok, sì. Questo è un punto importante. Senta, anche perché, guardi, la scuola, scusi l'ho interrotta, è una comunità per eccellenza. Chiudere le scuole rappresenta un grave disagio per i genitori. Perché la certo, poi i genitori devono andare a lavorare. Ma assolutamente sì, quindi è chiaro che inizialmente abbiamo posto in essere delle misure più dure, ma l'obiettivo è pian piano, in relazione, sempre confrontandoci con le autorità sanitarie che abbiamo, via via di riaprirle. Mi metto invece per un momento dalla parte degli insegnanti con una domanda che può sembrare come dire minimale, ma che interessa un vasto gruppo di lavoratori, gli insegnanti appunto. Secondo lei, in un momento come questo, è ancora giusto prevedere la trattenuta economica sulle buste paghe degli insegnanti per le assenze per malattia? In questo caso non stiamo parlando di malattia, questa è un'altra fake news che ho sentito in questi giorni. L'altro giorno in protesta qui al Ministero dell'Istruzione, quando abbiamo fatto la task force, c'era la Protezione Civile che diceva giustamente che in questo momento forse l'epidemia più grande che abbiamo è quella delle fake news. Gli insegnanti non sono a casa per malattia, quindi non avranno una trattenuta. Non, qui non c'entra nulla la legge Brunetta, qui sono a casa per cause di forza maggiore che non dipendono ovviamente da loro. Ministra, c'è un'ascoltatrice che ci scrive: quando parlavo di infrastrutture, no, per l'insegnamento a distanza, ponevo il problema tecnologico e gliene pongo due di problemi tecnologici. Un'ascoltatrice, un ascoltatore ci dice: guardate qua, per esempio, non abbiamo il 4G dappertutto, e questo ovviamente è un problema, e siamo in Emilia Romagna, quindi una delle zone nelle quali i contagi ci sono. E l'altra questione è: le famiglie con più figli, se la dotazione tecnologica non ce l'hanno, come fanno? Ossia, metti che ho due figli, tre figli magari, penso al mio caso, e ho un solo computer in casa, come faccio? Allora, per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica legata al 4G che qualcuno non ha, la TIM ci sta dando una mano, li abbiamo incontrati l'altro giorno qui, hanno dato massima disponibilità, quindi interverremo, fermo restando che anche lì io spero, citando proprio l'Emilia Romagna, che dalla prossima settimana si possa iniziare a ragionare non più su base regionale ma su base provinciale. Per quanto riguarda gli hardware che i nostri studenti hanno a casa, quando si parla della didattica a distanza bisogna immaginare che non è necessario un computer. Oggi non prendiamoci in giro, perché un cellulare i nostri studenti ce l'hanno quasi tutti quanti, sì. Quasi tutti quanti, e tante scuole, io penso per esempio anche all'Istituto Tecnico di Brindisi, ma ce ne sono veramente tantissime, fanno già lezione con il cellulare. Quando io parlo del cellulare, a volte ne abbiamo parlato tantissime volte anche con tante testate che si occupano di scuola, e dicevo, il cellulare è chiaro che non può essere lo strumento dato in mano agli studenti per chattare su WhatsApp, perché non è questo il suo uso, ma se se ne fa un uso con le app che già esistono per fare lezione, questa cosa esiste già, quindi non penso che ci sia un problema di hardware con i nostri studenti e le famiglie. Laddove serve anche per chattare, ministra, serve anche per chattare, cioè non è che non è che è un problema. Che i nostri studenti dovrebbero fare al di là delle lezioni curriculari. Ministro, sempre mettendomi dalla parte dei genitori, quando le scuole riapriranno, e tutti noi ci auguriamo che, appunto, a parte alcune zone, le altre aree riaprano quanto prima, cioè che praticamente a Milano facciano un po' di più dei due giorni che erano già previsti per le vacanze di carnevale, questo è l'auspicio. Ma molti genitori ci chiedono e si chiedono in che condizioni di sanità, la cosiddetta sanificazione, con brutto termine, questi istituti si troveranno, perché appunto c'è anche una preoccupazione denunciata da alcune associazioni di imprese di pulizia, perché denunciano appunto il rischio di mancata sanificazione delle scuole. Che cosa ci può dire su questo punto? No, allora forse si fa un po' di confusione rispetto alle imprese di pulizia. Noi stiamo portando avanti negli ultimi mesi una internalizzazione dei servizi di pulizia. Significa che dal 1° di marzo noi non avremo più imprese esterne alla scuola che si occuperanno delle pulizie all'interno della scuola, ma lo faranno i collaboratori scolastici interni alla scuola. Quindi io il problema non lo vedo, perché è chiaro che non manderemo i nostri studenti all'interno di scuole che non siano state pulite, ecco. Ma ci mancherebbe altro, poi tutto è migliorabile, per carità, però questo penso che sia alla base di tutto. I nostri studenti andranno in scuole che saranno assolutamente pulite. Abbiamo qualche ascoltatore, ci ha mandato degli WhatsApp audio, ne sentiamo qualcuno. Carmelo Lauricella, vai. Come viene giustificata questa assenza forzata da parte di tutti i lavoratori nel mondo della scuola, docenti, personale ATA, collaboratori esterni? Cioè, questi giorni come vengono retribuiti o comunque giustificati? Come malattia, permesso non retribuito, permesso retribuito? Sono madre di bambine delle scuole elementari. La dirigente scolastica ha per il momento vietato alle insegnanti di diffondere materiale didattico. Come sono compatibili le due cose? Basterebbero delle volte poche schede per far lavorare i bambini a casa ed evitare di sprecare tanto tempo davanti a televisione o videogiochi. Quindi, Ministra, due punti molto pratici. Il primo è proprio operativo per i lavoratori. Il secondo è, allargo io la questione, cosa state dicendo ai dirigenti, cosa direte ai dirigenti per far sì che poi il materiale venga diffuso ai ragazzi il più rapidamente e il più efficacemente possibile. Prego. Allora, rispetto alla prima domanda, lo ribadiamo, non è malattia, è come se i docenti, come se il personale ATA fossero andati a scuola normalmente. In questo credo che interverrà anche la ministra Dadone, pubblica amministrazione, per spiegarlo ancora una volta. Quindi lo diciamo, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente in ascolto, state tranquilli, arriva, aperte virgolette, la giustificazione, chiuse virgolette, esatto. Insomma, prego. Sì, sì, la giustificazione, sì, è proprio così. Per quanto riguarda invece il materiale didattico, oggi, come dicevo, parte la task force in tutti gli USR, che sono gli uffici scolastici regionali coinvolti nella chiusura delle scuole. Quindi daremo indicazioni a tutti i dirigenti scolastici. Considerate che fino a ieri, di fatti, le scuole comunque erano chiuse per le vacanze di Carnevale. Quindi da oggi stesso noi ci muoveremo. E di materiale didattico esistente anche per la scuola primaria ce n'è a iosa, perché i nostri docenti, soprattutto quelli che, se vogliamo, possiamo definire un po' più avanzati anche tecnologicamente, hanno già lavorato tantissimo, ma negli anni, quindi il materiale esiste già, bisogna metterlo a disposizione. Infatti noi, come Ministero dell'Istruzione, stiamo preparando una piattaforma per cui le scuole che sono già avanzate, le piattaforme all'interno di esse stesse ce l'hanno, andranno tranquillamente. Per coloro, per quelle scuole invece che non hanno la piattaforma, la creiamo noi come Ministero dell'Istruzione e mettiamo su tutta una serie di materiali didattici insieme all'INDIRE, insieme alla RAI, alla Treccani e a tanti altri partner che serviranno poi per i nostri studenti e per i nostri docenti. Ministro, non è la prima delle cose alle quali in questo momento bisogna pensare, forse nemmeno la seconda, forse nemmeno la terza, però ci sono genitori che per esempio hanno già anticipato i soldi per le gite scolastiche, ci sono soprattutto le agenzie di viaggio che vedono cancellate una dopo l'altra queste gite e sono in grandi difficoltà. Ci saranno dei rimborsi per i genitori, per le famiglie che hanno anticipato questi soldi, visto che poi le gite scolastiche sono state cancellate? Le gite si presume che potranno riprendere a maggio e quindi chi aveva fatto un investimento di questo tipo può stare tranquillo. È una questione non determinante, però sono le cose con cui le famiglie fanno poi i conti anche nel budget familiare. Non è determinante, ma è importantissimo. Guardi, io so cosa significa fare tanti sacrifici per mettere da parte dei soldi e far partire proprio figlio in viaggio di istruzione, me lo ricordo da studentessa. Quindi massimo rispetto per le preoccupazioni sia dei genitori sia delle agenzie. Allora, i genitori verranno rimborsati. Noi nel decreto legge abbiamo citato l'articolo 41 del codice del turismo, ma ovviamente anche le agenzie hanno bisogno di una risposta. E lì noi faremo un decreto ad hoc, ne abbiamo parlato ieri in Consiglio dei Ministri con il ministro Gualtieri. Però ci tengo anche a dire un'altra cosa, non è che i viaggi di istruzione potranno essere di nuovo operativi a partire da maggio, no, noi al momento abbiamo sospeso i viaggi di istruzione fino al 15 di marzo e io spero, mi auguro, dipende, ribadiamo sempre da quello che ci diranno le autorità sanitarie e da come evolverà la situazione, che a partire dal 16 di marzo si possa anche ricominciare ad andare in viaggio di istruzione. Questo però, ribadiamo, dipende dalla situazione epidemiologica che avremo nelle prossime settimane. Sì, quindi riunione della task force, quella che si riunisce quotidianamente, e bisognerà vedere l'evoluzione delle cose. Ovviamente siamo ongoing, come si dice, cioè è una fase nella quale non abbiamo tutte le risposte, non le ha ovviamente nemmeno la ministra, che ringraziamo. Ma i toni politici si sono abbassati anche dopo l'invito e la sua autorevole moral suasion del capo dello Stato? O vi aspettate che da qui a una settimana ricominci il balletto di attacchi, accuse dall'opposizione o all'interno della maggioranza? Ma io mi auguro sempre che ci sia un forte senso di responsabilità. In questo momento il Paese sta affrontando, se vogliamo, una fase molto delicata. Allora, in questo momento si dovrebbe fare veramente squadra. Gli italiani non si aspettano di vedere una classe politica che litiga in questo momento storico. Se si fa squadra, se si lavora tutti insieme, le faccio un esempio: io nel fine settimana ho chiamato Zaia, ho chiamato Bonaccini, ho chiamato Fontana, abbiamo lavorato insieme perché c'era un problema da risolvere, e così si fa, perché gli interessi di parte, quando ci sono delle problematiche molto più basse, in questo caso che il Paese deve affrontare, devono essere messi da parte. Sì. Chi non lo fa fa sciacallaggio politico, chi non lo fa è anti-italiano. La ringrazio, grazie a Lucia Azzolina, ministra di istruzione, per essere stata con noi. Buon lavoro. Una buona giornata, un buon lavoro naturalmente. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, Simone, a domani e ciao a tutti. Non faccio in tempo con i titoli di coda. A domani alle 6:30, ciao.